Summertime di Elisabetta Fiorito. Va bene, allora mi presento, io mi chiamo Baltasar Guardacci e sono il primo uomo nato da embrione eterodosso, fecondato in vitro da seme non consenziente e storto con l'inganno. Quando mia madre andò all'ufficio fecondazione assistite, le dissero: lei signora vuol fecondare in vitro o in tazza grande? Lei disse: in vitro. Io non dovevo nascere così, eh? No. Io dovevo diventare papa! Buongiorno, benvenuti a Summertime e abbiamo con noi oggi Gene Gnocchi in uno spettacolo un po' particolare, Sconcerto Rock, alla festa di San Lorenzo al Castello Malatestiano. Buongiorno Gene. Buongiorno. Allora, che succede in questo spettacolo assurdo dove una rock star subisce più disguidi che altro? Beh sì, è una presa in giro un po' di tutti i luoghi comuni del rock, quindi la sessualità del rocker, la sua intoccabilità, il suo essere fuori dagli schemi, l'uso di sostanze stupefacenti, e quindi è tutto una presa in giro dei miti del rock, ecco. Cioè, The Legend, tu saresti The Legend? Sì, sì, io sono Johnny Rockstar, The Legend, la leggenda vivente, sì. Tu ritorni sulla scena con un gruppo rinnovato e a un certo punto però questa celebrazione si trasforma in un calvario. C'è di tutto, in subordinazione dei musicisti, giornalisti. Sì, tutto è chiaro che questo è un rocker che parte, che fa uno spettacolo, cioè che fa una, per lui è la grande reentrée. Dopo tanti anni, cioè lui arriva in Italia perché è stato in Italia ma non ha mai pagato il canone Rai. E quindi è costretto adesso a tornare perché i proventi dei suoi concerti devono andare per pagare il canone Rai. E alla fine gli succede di tutto, ecco, sostanzialmente. In che modo tu ti ritrovi in questa rockstar? È mai successo uno spettacolo in cui succedeva di tutto, veramente? No, sì. Vabbè, no, ma infatti l'idea di partenza è stata proprio da lì, perché l'impianto che non va, le cose che succedono, la pioggia, le cose. No, l'idea di partenza è stata quella, poi l'è stata sviluppata. Poi a me piace tantissimo il mondo del rock, perché sono un rockettaro, e quindi l'idea di poterlo prendere in giro. Di solito si prendono in giro le cose che si amano tantissimo, e quindi, come il calcio, il rock, insomma, quindi io mi ci ritrovo molto, ecco. Ma qualche rock star che è venuto a vederlo già questo spettacolo, che critiche ti ha fatto? È venuto Shel Shapiro e gli è piaciuto molto, però l'unico che è venuto, gli altri stanno Vasco ha paura, Ligabue ha paura di Vasco. Poi litigano tra loro, no? Litigano tra loro, non hanno lo stesso giudizio, è un casino. Hanno un po' di depressione, ma The Legend soffre di depressione, perché noi abbiamo letto in questi giorni questa dichiarazione di Vasco che ci ha sconvolto a tutti. Certo, ci ha un po' sconvolto tutti, chiaro. No, The Legend è assolutamente immune dalla depressione. No, lui è veramente l'ultimo rocker buspante, spacca ancora le camere degli alberghi, ecco, rompe. Insomma, un po' come Pete Townshend oppure Mick Jagger. Sì, sono ancora quegli arzilloni del rock. Anzi, Keith Richards addirittura. Sì, Keith Richards, queste cose qua. Senti, quanto ti sconvolge, per esempio, nel mondo del rock, appunto, queste dichiarazioni delle rock star sulla depressione, la morte di Amy Winehouse, visto che te sei un amante del rock? Quanto mi sconvolge? Sì. Cioè, niente. Non mi sconvolge per niente, perché la vita di noi rocker è questa, cioè siamo sempre sul filo del rasoio, siamo sull'orlo del burrone, quindi un giorno sei di là, l'altro sei di qua. Ma qual è il gruppo di musicisti che ti ha formato nella tua vita e che ti è piaciuto di più di tutti? Paul Collins and the Beat, che venivano dai vecchi Nerves e che poi si sono sciolti, sono diventati Paul Collins and the Beat, i Plimsoll Souls, e Jack Lee ha fatto la sua strada per conto suo. È il mito del power pop. Quindi, sono i miei idoli incontrastati. I tuoi idoli incontrastati anche sì. Oggi? E sì, invece sì. Ai rocker italiani che cosa rimproveri? Di cantare, di suonare. Ah, perché non dovrebbero proprio cantare? Cioè no, il rock no, italiano proprio, non dovrebbe no, esistere? No, proprio non dovrebbero esistere, sì. Ma perché la lingua italiana non è adatta al rock, è più adatta alla lirica? Ma poi perché loro proprio non sono rocker, cioè sono proprio... Non so, sono polli d'allevamento. Tu parli di Ligabue, parli di Vasco. Parlo di tutti, cioè di tutto il panorama rock, c'è chi fa rock, ecco. Senti, Gene, invece quali sono i tuoi prossimi appuntamenti anche per quest'inverno? Quest'inverno credo che starò a casa a dormire, perché non ho proprio appuntamenti. Non vedo un futuro, quindi starò a casa a leggere e basta. Perché non vedi un futuro per la televisione italiana? No, non vedo un futuro per me, quindi starò a casa. Quindi hai preso un po' il trend del rocker, un po' di pessimismo? No, è un'assoluta consapevolezza, non c'è niente di pessimistico, cioè non vedo un futuro lavorativo e quindi farò dell'altro, imparerò qualche lavoro, l'odontotecnico magari, queste cose qua, ci sono tante professioni nuove, l'hacker, il broker, non so. Il broker mi sa che in questi giorni va male però, dice male. Non so, però non l'hai mai detto. Sai, c'è sempre la speranza nella rinascita dei mercati, non so. Insomma, sai come sta l'analista di rating. Ah, tu dici alla Standard & Poor's. Vuoi essere assunto da Standard & Poor's? Non sarebbe male. Non sarebbe male, no? No. Ma ti senti più triplo A o A più, come praticamente l'America in questo momento? Io mi sento triplo A. Assolutamente, sempre triplo A. Quindi tu vuoi essere assunto da Standard & Poor's oppure magari da qualche altra cosa, perché mi sa che con le borse va male, forse è meglio, come hai detto, l'odontotecnico. Sai, i denti, bene o male, una persona si deve sempre curare. In Ungheria vanno tutti a farsi i denti in Ungheria, quindi dovrai aprire in Ungheria, diventare ungherese e fare l'odontotecnico ungherese, ma non è semplicissimo. Fa più freddo che a Milano. Alla mia età non è semplicissimo. Quindi hai deciso che basta TV, basta, fine. No, non è che ho deciso la TV che basta Gene Gnocchi, è diversa la cosa. Io qualche cosina la farei anche volentieri, ma è così, cioè, ma è giusto, il ricambio deve essere generazionale, deve essere per tutti. Che cosa proporresti? Ah, io farei un varietà, però un varietà che non mi fanno mai fare. Tipo anni 50? Oppure no, tipo no, canzonissima? No, un varietà... Varietà che in mente, però non lo fanno mai fare perché non ho appeal, capisci? Ho capito. Va bene, allora rivedremo Gene Gnocchi nella finanza. Non vi spaventate, perché dal prossimo anno lo vedremo come analista minimo di Standard & Poor's. Ma guarda, potresti anche fare il consigliere, magari il presidente del consiglio. Vedi che lui adesso deve fare questa seconda manovra, terza manovra, quindi. No, per queste cose qua io non faccio consigliere, mi piacerebbe avere un incarico, non so, adesso mi ha chiamato Barroso che mi ha chiesto se voglio comprare la Grecia, però ci sto pensando. Intanto vendono le isole piccole anche in Grecia, quindi magari inizia da un'isola. Tu vuoi quale? Vorrei prendere la Grecia in toto, ho bisogno di spazio, perché ho bisogno di spazio, quindi vorrei la Grecia. Se la vende a un buon prezzo, prendo la Grecia e sto lì. Dici, poi però i problemi di declassamento, insomma, ci sono un po' di problemi? Beh, quelli poi si risolvono. Ho capito. Allora, con queste premesse noi salutiamo Gene Gnocchi, ricordando che questa sera sarà a Gatteo, a Mare, in provincia di Forlì, alla festa di San Lorenzo, corte del Castello Malatestiano. Grazie. Ciao a tutti. Summertime. Andiamo a Pesaro, dove questa sera si apre il Rossini Opera Festival, arrivato alla 32esima edizione. Abbiamo qui a Summertime il maestro Alberto Zedda, che è il direttore artistico di questo festival. Quali sono le novità di quest'anno? Cosa portate in scena? Beh, sa che con Rossini è difficile avere delle novità, perché abbiamo più o meno fatto tutto il catalogo, però quest'anno effettivamente c'è un'opera che non era ancora stata presentata, un'opera che non gode di buona stampa, perché fin dalla 18, dal primo biografo di Rossini, è stata qualificata un'opera minore, un'opera poco riuscita, un'opera mediocre, un'opera che sarebbe retrodatata rispetto alle conquiste che Rossini aveva fatto soprattutto nella grande stagione napoletana, perché quest'opera dei Lai di Borgogna è stata scritta a Napoli fra colossi come l'Otello, il Musee, il Momento II, eccetera. E io credo invece che l'opera sia talmente diversa da tutte le altre che possa aver ingannato anche i suoi biografi e anche i suoi amatori, perché è un Rossini veramente molto diverso dagli altri. Si è trovato a musicare una storia molto complicata, molto difficile, raccontata in modo molto improprio, molto leggero. Prenderla troppo sul serio poteva essere addirittura mortale per questa storia, si creava una dicotomia insostenibile. E Rossini invece non ha raccontato la storia come normalmente si raccontano le storie, ma ne ha raccontato l'atmosfera, il profumo, così era sospesa in questo mondo antico di cavalleria, di amore cortese, di spirito trovadorico, non so come dire, gli ha dato la leggerezza di una favola. A un soggetto che favola non è, secondo me. Allora, ecco un attimo, maestro, la interrompo per far capire anche ai radioascoltatori la trama, perché non è che si tratta di quelle opere così fondamentali, quindi è ambientato nel Medioevo. Lotario. La trama è molto importante, perché si tratta dell'ultimo passaggio della cessione del Regno d'Italia a un reggitore italiano, come era stato fino a quel punto, oppure a Ottone di Germania, che grazie a questo allargamento del suo impero eccetera diventerà poi il primo imperatore del Sacro Romano Impero, cioè il primo imperatore, diciamo, europeo, no? Questo che quindi è un episodio di importanza fondamentale, che qui però viene raccontato in modo molto sommario, abbastanza improprio. Ma mi creda, non è importante la storia in questo caso. Importante è l'atmosfera con cui Rossini racconta questa storia, non esente da una certa ironia, ma soprattutto con un'estrema leggerezza, con un'eleganza e con una poesia così, così insolita, così lontana nel tempo, così arcaica, che veramente non credo che ci sia un'altra opera di Rossini che possa dire qualche cosa di simile, capisce? Quindi per me è un prodigio di fantasia e di adattabilità a un soggetto colto a raccontare, invece che rifiutarlo, Rossini l'ha piegato alla sua grandezza, alla sua volontà, e ne esce un'opera secondo me stupenda anche per una leggerezza di canto, una ispirazione di canto, un equilibrio fra canto e orchestra, un valore da dare a questo bel cantismo suo virtuosistico, ma che perde la caratteristica di virtuosismo e diventa invece un linguaggio astratto, bellissimo, poetico. Ecco, poi mettete in scena un'altra opera, Moisè in Egitto. Lei sa che è una delle opere più belle che ha scritto Rossini. Rossini l'amava talmente che quando a Parigi ha voluto ripresentarsi con qualcosa, con una carta vincente, qualcosa di sicuro, ha ripreso e proprio quest'opera l'ha allargata, naturalmente l'ha anche modificata, ma sostanzialmente l'opera è quella. Per noi rossiniani la prima versione è ancora quella più autentica, quella più che ha la misura più giusta. Quando a Parigi si trasforma in una grande opera, naturalmente acquista respiro, acquista potenza, acquista retorica, un grande valore, però perde un pochino questa caratteristica, come si può dire, di Rossini, che è un po' quella stessa di cui parlavo prima, di raccontare anche i grandi fatti della storia con una immediatezza e con un senso di con un certo intimismo e una certa poesia che non è soltanto, come dire, non è soltanto rincorrere la pompa. Ecco, perché noi sappiamo che per esempio il Moïse e Faraone è andato in scena a Roma, no? per esempio, la direzione di Muti per l'apertura per i 150 anni d'Unità d'Italia, c'è stato addirittura il bis del coro. Lei invece preferisce il Mosè in Egitto, la versione napoletana scritta a Napoli. Più o meno sempre detto. Però no, questo non escludo, sono due opere diverse, guardi, come spesso in Rossini, due opere che sono sostanzialmente uguali e suonano in modo completamente diverso. Guardi il caso del Viaggio Reims e delle Comptorie, per esempio, che hanno il 55-60% di musica in comune e suonano come due capolavori completamente diversi. Questi sono i miracoli di Rossini. E siccome ultimamente, proprio grazie a queste meravigliose edizioni di Riccardo Muti, si è fatto molto l'altro Mosè, ci sembrava in un certo senso opportuno riequilibrare un po', non riequilibrare, ma far vedere queste due facce di Rosini, che può essere nello stesso tempo un autore poetico intimista, oppure rasentare ormai il grande opera romantico e preludere alla grande stagione dell'opera romantica. Ecco, ma lei non pensa, qualche critico di Rossini dice sempre che le sue opere migliori poi sono quelle lì leggere, Il barbiere di Siviglia, di cui voi presenterete una versione solo d'orchestra, mi sembra, solo strumentale. Sì, questo non oppure sarà per noi una rappresentazione, è un'occasione di sottolineare il lavoro della Fondazione Rossini, che appunto ha pubblicato questa importante edizione del Barbiere, e il Festival, che è un fratello della Fondazione Rossini, rende omaggio alla sorella Fondazione Rossini, sottolineando con questa esecuzione il lavoro di stampa e di pubblicazione che la Fondazione ha fatto con quest'opera. Ecco, ma lei non pensa allora che il Rossini, quello leggero, quello del barbiere, quello degli italiani in Algeri, sia poi il Rossini che tutti ricordano, più non che so il Rossini un po' più seriosa? È questione che io non vedo quel Rossini tanto leggero, capisce? Cioè, forse il soggetto è leggero, ma io trovo il barbiere un'opera molto seria, molto amara, con tutto sommato con delle... Insomma, voglio dire, sono molto incerto se definire l'opera comica, faccio molto fatica. Ah, per lei non è un'opera buffa? No, le devo dire che faccio fatica a definire opera comica La Cenerentola e Il Barbiere, come mi sarebbe difficile definire così Fantuzzi di Mozart un'opera comica, cosa vuol che ne dica. Per me è la più tragica, la più drammatica delle opere mai scritte, e si chiama così Fantuzzi. Quindi sa, lei ha una sua visione. Senta, invece io ho visto che per i 150 anni dell'Unità d'Italia avete anche l'anteprima italiana del film Viva Verdi Giuseppe, insomma, quindi vi dedicate non solo a Rossini ma anche a Verdi. Quest'anno siete magnanimi a Rossini Opera Festival. Verdi è molto più vicino a Rossini di quello che immaginiamo noi, ha preso molto da Rossini. E lo ha sempre riconosciuto, per la verità, lui lo chiamava Papà Verdi, Papà Rossini, quindi qualcosa di vero c'è. Ma per carità, quando noi esaltiamo Rossini non è certo per diminuire gli altri autori, solo che Rossini ha una sua singolarità, una sua personalità così unica, così diversa da tutte le altre, che può piacere o non piacere, ma non è assolutamente inavvicinabile al lavoro di altri musicisti, dal lavoro teatrale, io penso, anche proprio per la... come dire, per l'impostazione estetica con cui il suo modo di raccontare le cose, al di là dei risultati musicali veri e propri. Ecco, poi la terza opera è La Scala di Seta, che torna dopo un successo, no? La riproponete dopo poco tempo. Sì, noi non riprendiamo spettacoli così a breve tempo come in questo caso, ma il successo fu tale, devo dire, che la gente ci chiede di rivederlo, e l'abbiamo rimesso in cartellone prima di come usiamo fare una ripresa, quindi questo ci va sul sicuro, è un modo molto moderno, e fra l'altro a noi fa piacere perché dimostra come anche una regia di oggi o addirittura di domani funziona benissimo con la musica che qualcuno definisce di ieri, e che noi continuiamo a insistere, di oggi e di domani, che è la musica di Rossini. Quindi lei ovviamente tra Rossini e Verdi sceglie Rossini. Questa è una scelta personale, io adoro Verdi, e quando dico Verdi sono la persona più felice del mondo, ma come dire, non lo preferisco più da un punto di vista musicale, devo dire, la musica di Verdi mi commuove di più, lo preferisco da un punto di vista etico, da un punto di vista metafisico, da un punto di vista morale, da un punto di vista teatrale, il suo modo di raccontare, la sua ironia, il suo senso di ambiguità, la sua apertura, la libertà che lui lascia all'ascoltatore e all'interprete di fissare lui i significati ultimi della sua operazione musicale, mi affascina, più come uomo di teatro, come ne dico, più come uomo di cultura, più come mente intellettuale, direi come filosofo, che è una parola che non dovrebbe centrare con la musica. Ma secondo me interessa molto anche la filosofia, trovare un musicista che con la musica mi fa anche un'etica e una filosofia, vero? È chiaro, che corrisponde al mio pensiero, perché anche Verdi la fa, ma la filosofia di Verdi è la filosofia come si dice, del mondo imperante del monoteismo. Sì, insomma, io preferisco Rossini, io glielo dico. Io preferisco Rossini perché soprattutto per l'aspetto femminile, queste eroine rossiniane sono sempre molto più attive di quelle lì verdiane che generalmente muoiono, oppure insomma hanno sempre vita sfortunata. Ma questo lo dobbiamo dire pure di Puccini. Cosa, però cosa di moderno Rossini rispetto a Verdi? Che Rossini non dà giudizi, non ci sono i bravi cattivi in Rossini. Il mondo è visto con una certa bonomia, un certo distacco, ironia, come se fosse un Dio che guarda il mondo un po' con distacco, con lontananza, e lo guarda con molta serenità e anche con molta comprensione, ma senza scegliere. Invece Verdi sceglie sempre, sappiamo benissimo dove stanno i buoni e dove stanno i cattivi in Verdi. In Rossini è molto difficile scoprirlo, questo. Allora, con questa riflessione del maestro Alberto Zedda, direttore artistico del Rossini Opera Festival, che si apre oggi e arriverà fino al 23 agosto a Pesaro, salutiamo il maestro ricordando appunto che in scena ci sarà l'Adelaide di Borgogna e poi il Mosè in Egitto e anche la Scala di Seta. E infine ricordiamo l'anteprima del film Viva Verdi, Giuseppe, e una in forma di concerto, Il Barbiere di Siviglia. Grazie maestro. Grazie a lei, arrivederci. Arrivederci. Grazie ancora. Summertime. Eripari caravava contro corrente. E quando canta l'eco sta risente. E adesso noi andiamo al Fontanone Estate, al Gianicolo, con uno spettacolo che a dir poco romano non si può. Il Core de Roma, omaggio a Gabriella Ferri, interpreta Gabriella Ferri Cristina Cellini, alla quale diciamo: ma perché uno spettacolo su questa cantante popolare romana? Ma perché quando si pensa a Roma non si può non pensare anche a Gabriella Ferri, perché è stata lei la più grande interprete, la voce più passionale, più bella in assoluto, quindi cantando Roma mi sembra doveroso ricordare un artista come lei. Gli artisti vanno ricordati più spesso di quanto facciamo. Lei era però un po' nota per essere un po' cupa, perché queste canzoni romanesche poi generalmente hanno, no, questa visione molto molto cinica, molto nichilista della società. Il Barcarolo è tipica, per esempio, no? Esatto, infatti forse non era solo lei ad essere cupa, ma è proprio il pensiero romano che è alla base, la nostra cultura, la nostra tradizione. Evidentemente siamo un popolo che ha bisogno di rifugiarsi nelle canzoni in maniera più melodrammatica, se vogliamo. Sono in fondo canti di carcerati, canti di persone del popolo che soffrono, che combattono, e in fondo non è così lontana la situazione di oggi. Magari siamo meno combattivi, però la situazione è sempre molto difficile. Lei poi era una persona molto pessimista, molto cupa di per sé, si è parlato anche di suicidio, poi smentito riguardo alla sua morte. Insomma, ci sono varie ipotesi, perché era una persona che in questo interpretava bene l'umore della città. Ma forse più che pessimista io parlerei di invece una persona con una grandissima sensibilità. Io per esempio ho un ricordo della Ferri, non l'ho conosciuta personalmente, ho un ricordo che è dato dalle immagini televisive, e io mi ricordo sempre questa risata fantastica. Quando si è parlato addirittura di suicidio io non ci credevo, perché comunque per me l'immagine della Ferri è sempre quella di una persona comunque solare, forte, di una gran bella risata. Credo che, essendo stata lei anche una pittrice, una poetessa, credo che probabilmente era una persona con una sensibilità molto grande, che è stata schiacciata da una società molto aggressiva. Forse preferisco pensarla più in questo modo. Senti, lei era nata nel rione Testaccio. Te in che rione sei nato? Cioè, possiamo dirlo? Io sono nata a San Pietro. Ah, quindi non è proprio un rione popolare San Pietro, dai. Però sono papalina. Sei papalina. All'epoca lo era, io non sono una ragazzina. Sono papalina, come si dice a Roma. Sei un po' papalina, come noi sappiamo, ecco, lo diciamo perché la nostra è una radio nazionale, che i romani poi l'altra caratteristica è quello di essere antipapalini, no? Soprattutto il romano del popolo, no? È uno È vero, perché. noi abbiamo questo rapporto di amore-odio con il Vaticano, chiamiamolo così, perché ci siamo nati, è nel nostro DNA, però è sempre visto come un palazzo del potere, no? Il potere vero è quello del Papa, no? Del Papa re, addirittura un tempo. Esattamente, Senti, esattamente. allora, tra le canzoni che tu canti ce ne sono varie, tipo appunto Barcaroro Romano, Le Mantellate, che ricordiamo è la via che scorre vicino a Via della Lungara, no? È Certo, vicino al carcere di Regina Coeli. Via delle Mantellate un tempo c'era il carcere femminile. Appunto, poi chitarra romana, il valzer della toppa, Solamenica, te possono dà tante coltellate, nannare, insomma, c'è una canzone romanesca che sia un po' più meno pessimista, ecco, un po' più ottimista. Ma sì, ce ne sono, figurati, dai Castelli o la Società dei Magnaccioni, diciamo che hanno sempre questo fondo un po' più amaro. Però, per esempio, c'è l'Ortolano, che è molto divertente, che faccio anche nello spettacolo. Ce ne sono diverse che sono comunque allegre e spensierate, ecco, diciamo così. E che cosa ti è rimasto? Qual è la canzone che ti piace di più del suo repertorio? Come lei La mia la interpretava? preferita in assoluto è Il Valzer della Toppa, scritta da Pasolini, che trovo sia una canzone estremamente teatrale, molto, molto, molto bella, molto divertente da interpretare. Tra le canzoni di Gabriella Ferri, quella che preferisco invece è Remedios, che non tutti sanno che l'ha scritta lei, perché è in spagnolo, la versione originale proprio, e fortunatamente è stata ritirata fuori perché era la colonna sonora di un film. L'ultimo bacio, se non erro, quindi abbastanza conosciuto, però Remedios è molto molto bella ed è scritta da Gabriella Ferri. Saturno contro, mi precisano Scusami, dalla bravissima, regia, dalla bravissima. regia. Ho No, guarda, è fatto una Gloria, è gaffa, Gloria. è vero? È la mia assistente Gloria che è bravissima e quindi Ha ragione lei, mi sono distratta. Saturno contro. Assolutamente sì, Saturno contro. Quindi anche un modo di Grande riscoprire. film, grande film. Anche un modo di riscoprire quindi attraverso questi film quelli che sono i capolavori del passato. Allora, ricordiamo l'appuntamento con Cristina Cellini al Fontanone Estate per un viaggio con Gabriella Ferri. Io vedo la tua foto che insomma ti sei messa un po' i capelli biondi con gli occhi così come li portava lei, Truccati. truccati con questa matita forte, insomma, ti impersonifichi bene. Beh, cerco di ricordarla il più possibile perché, ti ripeto, io l'adoro, quindi fare un omaggio a lei mi sembra una cosa anche molto giusta. Io trovo che tra me e lei, oltre a una somiglianza fisica, ci sia proprio una somiglianza di sentimenti, di romanità. L'ultima cosa che vorrei dire, ricordo chi è in scena con me, tre musicisti straordinari. Emanuele Tamborrelli, il più giovane, e poi Mariano Perrella e Jimmy Tamborrelli, che erano i musicisti di Gabriella Ferri. E io sono onorata del fatto che loro abbiano scelto di suonare con me. Quindi è tutto uno spettacolo dal vivo. Ricordiamo la Fontanone Estate al Giannicolo fino al 12 agosto, Er Core de Roma con Cristina Cellini. Omaggio a Gabriella Ferri. Grazie, Cristina. Grazie a voi, a presto, vi aspetto a teatro. Pequeña, chiquita, hermosa, preciosa, linda niñita, quédate así, sentada a la orilla del mar y las manos llenas de perla, el sol en tu frente y en la sonrisa, blanca orquídea, alma y paloma, vida, alegría, tu canto es consuelo, tu canto esperanza, tu canto remedios, E adesso noi andiamo al teatro antico di Calatafimi Segesta, dove è in scena Le Baccanti, da Euripide a Rainer Maria Rilke, uno spettacolo di Garofalo e Maccagnano. E noi abbiamo qui a Summertime Dario Garofalo. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Da Euripide a Rilke ce ne sono di secoli, eh? Quindi come strutturate questo spettacolo? Ma insomma la rilettura del testo di Euripide ci ha lasciato, diciamo così, non, delle parti corali non ci hanno del tutto, nella nostra visione chiaramente di messa in scena, soddisfatto, nel senso di arricchire il testo di una liricità e di una, diciamo, vicinanza appunto più ai nostri tempi, una poesia più moderna e più oscura, più orfica appunto, tant'è che ci siamo riferiti ai sonetti Orfeo di Rilke, che raccontano sostanzialmente in maniera molto più visionaria, molto più misteriosa, quelli che sono riti similari, diciamo, e avvicinabili comunque. E quindi abbiamo utilizzato alcuni sonetti Orfeo di Rilke per aggiungere e raccontare ancora meglio questa che è la nostra visione dell'avvento di Dioniso, diciamo, della civiltà contemporanea. E allora io te la chiedo, qual è questa visione delle Baccanti, queste figlie di Dioniso, o comunque di Bacco, che addirittura distruggono tutto quello che incontrano, no? In questa orgia dionisiaca? Sì, questo è il risultato dell'arrivo, appunto, dicevo, nella civiltà contemporanea, in quanto Tebe sta, diciamo, a Dioniso che arriva da un'Asia remota, diciamo, arriva a Tebe, cioè nel centro dell'Occidente, del periodo in cui Euripide scrive, e sfascia tutto, rompe tutto, porta un messaggio di novità, un messaggio che ha a che vedere con un rapporto dell'uomo con la natura molto, molto appunto dirompente per l'epoca e devo dire anche molto significativo per noi oggi, e porta con sé già delle baccanti, cioè delle persone che hanno appreso e hanno accettato i suoi riti e convince subito quasi tutto, sostanzialmente ad una maggiore condivisione con quello che è appunto il mondo naturale, inteso solamente come mondo fisico, ma come proprio mondo emotivo. Chi si contrappone a questo è l'unico e solo Penteo, il re, quindi diciamo il potere momentaneo, perché il vecchio re invece sta con Dioniso e ovviamente soccomberà drammaticamente. Diciamo che l'aspetto orgiastico, che in genere è sempre molto esaltato anche nelle messe in scena, non è particolarmente sottolineato in questa messa in scena, se non proprio l'aspetto della piccolezza della più che della cultura, della coscienza di chi rimane ancorato ai propri punti di vista e non capisce che il nuovo o il diverso, ecco, il diverso in quel momento è il nuovo, è la vera rivoluzione. Quindi E questo è il contesto. qui subentra un pochino Rilke, che è un pochino diverso, immagino. La sua visione non è poi così forse orgiastica o dirompente, è una visione più intimista. Sì, esatto, Rilke ci ha aiutato a ricordarci questo in maniera appunto lirica e tanto da non fare appunto di questo che è un concetto che ho appena espresso, che ha a che vedere anche appunto con una visione diciamo politica, l'aiuto di Rilke non ci ha fatto trasformare questo in uno spettacolo diciamo così politico, ma proprio in uno spettacolo in cui è la poesia che può come dire, creare il cambiamento, è la poesia che può rivoluzionare, diciamo così, le anime, ecco. Che visione vi siete fatti delle donne da queste baccanti che avete estrapolato da Euripide e da Rainer Maria Rilke? Le baccanti, se sono intese proprio come le seguaci di Bacco, diciamo che questo, quindi di Dioniso, diciamo che questo spettacolo ha un taglio a livello così di connotazione sessuale piuttosto ambiguo, comunque variegato, nel senso che Dioniso è interpretato da Cinzia Maccagnano, che è chiaramente una donna, ed è diciamo abbastanza semplice poiché Dioniso si presenta in vari aspetti, può essere donna, può essere uomo, può essere animale, però ecco che fa questo da contraltare al fatto che Penteo, cioè il suo contraltare appunto che interpreto io, da uomo si trasformerà, diciamo, sarà trasformato da questo incontro col sé natura sotto forma appunto dell'incontro con Dioniso, si travestirà da donna e diciamo che in questo travestimento emerge la sua parte femminile che già era presente, così come le baccanti Agave, che la madre di Penteo è interpretata da un uomo, che è Valerio Malorni, così come Cadmo, che è il vecchio re, cioè il nonno di Penteo, il vecchio Cadmo è interpretato da una donna che è Cristina Putignano. Quindi questi connotati, diciamo, sessuali si confondono, e la bacchicità è proprio data da una confusione che appunto non è probabilmente confusione, ma propria realtà nascosta e tenuta a bada da conformismi e conformità più di facciata che, diciamo, di natura. E con questa frase, cioè, hai fatto sicuramente venire voglia di venirvi a vedere Calatafimis e Gesta Festival al Teatro Antico, da Euripide a Rilke, Le Baccanti di Garofalo e Maccagnano. Grazie a Dario Garofalo, che è stato grazie con noi. A voi. Ciao. Grazie a voi. Summertime. Pensi che la mia vita è così tranquilla, non succede mai nulla. A volte, prima di inserire la chiave nella serratura, mi chiedo: mio Dio, fa che ci siano i ladri in casa. Le andrebbe di diventare il mio amante? Questa frase ci introduce a Vietato attraversare i binari, uno spettacolo che andrà in scena questa sera, scritto e diretto da Michele Pagano, alla Corte Comunale di Formia. Buongiorno Michele. Buongiorno. Ecco, insomma, uno spettacolo che parla di un incontro che si sviluppa in una stazione tra un uomo e una donna. Abbiamo sentito questa frase che ci ha già incuriosito. È una relazione particolare. Molto particolare, diciamo, è un incontro tra due solitudini che si incontrano sotto una metropolitana di notte. E che cosa succede? Succedono tante cose, diciamo che entrambi hanno una voglia di ascoltare, di farsi ascoltare, quindi hanno bisogno di una notte diversa, e quindi la cercano attraverso tante cose, tante piccole cose, tante cose che non hanno più, che non avevano più, e cercano di ritrovarli in questa notte. Diciamo che è una chiave di narrazione leggera e semiseria, una storia che descrive un immaginario femminile attraverso un variegato triste, ironico, una modalità comica, ho scelto una modalità comica ma anche sottile e delicata per questo spettacolo. Quindi loro sono alla stazione di un paese sconosciuto, oppure si fa anche il nome della stazione? No. Non è importante. È un paese sconosciuto, diciamo che loro aspettano questo treno, che poi questo treno che non arriva mai è una metafora, è la metafora di una speranza. Sì, è tipo Estragon e Didi, aspettando Godot. Con la differenza che loro sapevano bene, cioè stavano aspettando inconsapevoli, mentre loro invece lo sanno benissimo che aspettano senza, cioè aspettano inutilmente. Questo treno che non arriva mai, ma loro poi però si cominciano a conoscere. Che cosa succede? Sì. Diventano amanti? Che cosa... No, questa potrebbe essere la cosa più facile. Diciamo che si conoscono, c'è un conflitto iniziale, poi ci sono dei momenti poetici, teneri tra di loro, ma alla fine comunque è solamente una serata, sono due solitudini, ecco, mi ripeto, che si incontrano, che ha bisogno almeno una sera, poche ore per stare bene. Quindi diciamo il treno non è aperto, c'è un finale che non ho voluto chiudere, cioè... Quindi lasciamo l'immaginazione un grande punto interrogativo alla fine, che cosa succede? Cosa succede? Però loro si cominciano a conoscere. Allora, parliamo di questi due personaggi, un uomo e una donna. La donna quanti anni ha, l'uomo quanti anni ha, che cosa fanno nella vita? Viene detto? Viene detto, anche se è molto misterioso, infatti non ci sono nomi. Loro non, infatti, si danno del lei fino alla fine, c'è anche il testo, infatti non prevede nomi, c'è solo lui, lei. Ecco, più o meno si intuisce l'età dei personaggi, lei è sulla quarantina, lui è un po' più giovane, lui è un giornalista, anche scrive delle cose un po' particolari, e lei è una casalinga, tutto qui, insomma, queste sono niente di che. Non c'è, cioè, nulla. Lui che cosa scrive di particolare? No, siccome essendo del mestiere, ogni tanto... Lui scrive coccodrilli. Quindi scrive storie per personaggi famosi, prevede, diciamo, tra virgolette, la morte di personaggi famosi. Sì, ecco, spieghiamo poi a chi non è del mestiere, i coccodrilli sono delle biografie già chiuse di personaggi che ci sono nei giornali, esatto. Di personaggi che si sa che stanno un po'... magari malati oppure sono un po' anziani, allora, ci si mette avanti col lavoro, quindi insomma, esatto. Lui scrive... Infatti lui come scrittore aspetta che qualcuno scriva per lui. La sua morte. Quindi questa è la sua sofferenza, il suo malessere, è che lui scrive di tante persone ma nessuno ha scritto per lui o di lui. Ho capito, rimarrà un semplice giornalista di coccodrilli, mentre lei rimarrà una semplice casalinga, che però si incrociano in questa stazione. Allora, ricordiamo, vietato attraversare binari, scritto e diretto da Michele Pagano. Abbiamo sentito anche la scrittura particolare, loro, i due protagonisti si daranno del lei per tutta quanta la PS, quindi insomma un impegno, e questa sera presso la Corte Comunale di Formia. Grazie Michele. Grazie a voi, buon lavoro. E noi andiamo ad una festa particolare. Sì, questa sera, infatti, se bisogna andare a questa festa bisogna vestirsi come una dama o un cavaliere, perché stiamo parlando di una festa medievale, amor cortese nelle terre di Palena, feudo di Messer Scordello d'Agoito. A Palena, appunto, dalle ore 10:30, quindi da stamattina, musicisti, giocolieri, artisti di strada, saltimbanco più cena medievale. Allora noi chiediamo subito al regista di questa giornata che cosa vuol dire cena medievale, cosa si mangia. Buongiorno Fabio Di Cocco. Buongiorno a voi, grazie per averci contattato. Insomma, è una serata dedicata all'amore. Sordello d'Agoito è un poeta dell'amor cortese citato da Dante Alighieri, e nella storia di questo paese di Palena, qui in provincia di Chieti, è feudatario, questo proprio storicamente vero, della città di Palena. Quindi questa sera ci saranno cantori, poeti, artisti, e il menù sarà un menù diciamo dedicato all'amore, non afrodisiaco, però dedicato all'amore. I piatti ripercorrono quella che è la tradizione culinaria medievale attraverso l'uso di spezie molto forti, zenzero, coriandolo, e attraverso poi le sapienti ricette che abbiamo trovato insieme qui a uno chef del luogo che si chiama Edoardo Como, e abbiamo ricostruito questa cena dell'amor cortese. Quindi per tutta la sera, oggi e anche domani, sarà possibile passeggiare per le vie del borgo e incontrare poeti, ciarlatani, mangiafuoco, giocando, veramente giocando, con il tema del Medioevo e il tema dell'amore. Ma lei è un appassionato di Medioevo, perché il Medioevo ha questi suoi fan, no? Che sono molteplici, che diciamo si parla poi sempre dal Medioevo, dall'Ottocento fino al 1200, no? All'incirca. Sì, sì, come, sì, sì. Qui come periodo siamo un po' fuori, siamo già nel 1240. Fino al 1300, via. Sì, insomma, ci siamo. E sono appassionato di Medioevo, noi ci occupiamo di rievocazioni medievali qui nel centro-sud d'Italia. C'è un grande affare sul Medioevo, poi in Abruzzo dalla Perdonanza dell'Aquila, la Giostra di Sulmona, più tutte queste realtà, e i Banderesi di Bucchianico, che sono conosciutissimi qui nella parte meridionale d'Italia. Noi ci siamo appassionati dalla tenera età a questo tipo di rievocazioni. Abbiamo cominciato poi a proporci prima come gruppo, e poi abbiamo iniziato le nostre rievocazioni nei paesi dell'entroterra teatino. Ma perché questa passione per il Medioevo, visto che è un'epoca di cui si sa poco? È un'epoca molto affascinante, devo dire, perché è un'epoca di mezzo. Si parte, finisce la parte dell'impero romano e comincia questo nuovo periodo, che poi arriverà a sviluppare delle innovazioni tecnologiche, delle innovazioni anche nello stile di vita, no? Cambia un pochino il mondo. E poi è affascinante il discorso delle dame, dei cavalieri, ci sentiamo un pochino forse siamo noi, la mia generazione, un pochino presa dal tipo di discorsi che si facevano quando si andava a scuola, no? Robin Hood, o piuttosto che Romeo e Giulietta, Paolo e Francesca. Le crociate, tutto questo mondo. Le crociate. Tutto. E allora vestire per un paio di giorni. Federico II di Svevia. Esatto. Poi qui, insomma, Federico II ha avuto dei bei trascorsi tra la nostra zona. E quindi abbiamo seguito l'onda, diciamo, un po'. Piatto tipico medievale a base, appunto, di carne soprattutto, no? Sì, di carne, ecco, molti propongono la porchetta, quella più becera. Invece noi proponiamo, ci siamo andati ad informare, la cacciagione, le quaglie soprattutto, povere bestiole, quaglie, fagiani e comunque carne proprio, ecco, da caccia. Poi noi siamo all'interno del Parco Nazionale della Maiella, abbiamo riproposto un prodotto che è tipico della nostra zona, che è il maiale nero abruzzese, una variante del maiale nero, e abbiamo preparato dei piatti a base di carne suina. Quanti giorni ci vogliono per digerire tutto ciò? Tanto, Visto tanto. che siamo in montagna, un paio di passeggiate buone fino a Roccaraso, fino alle zone alte della montagna, e poi passa, si può tornare giù e prendere il resto. Allora ricordiamo musicisti, giocolieri, artisti di strada, saltimbanchi, cena medievale, festa medievale a Palena in provincia di Chieti, per tutta la giornata e anche per tutta la serata. Grazie a Fabio Di Grazie, grazie, grazie Cocco. a voi, buon lavoro. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia, Gloria Guerrera in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a summertime@radio24.it. Una buona giornata da Elisabetta Fiorito.